Dopodiché abbiamo una persona un po' più seria, che invece è Chiara Pergola, che è il mio supporto per il tavolo del forum di domani, senza il quale sarebbe naufragato, sarebbe andato abbastanza completamente tutto in vacca, a rotoli. E mentre invece, appunto, continuando sulla serietà, abbiamo Lorenzo Balbi, il re della serietà, proprio la serietà. Esatto, la palma della serietà a cui questo forum è dovuto. No, non è vero. Beh, sei troppo buono. Diciamo che se tu dicevi tu no, non nell'acquario, sei troppo buono. Diciamo che se tu dicevi no, il forum non si fa, difficilmente si sarebbe fatto. Vero, questo è vero. E dunque, cosa succederà domani? Tu che sei un po' il coordinatore di tutto, raccontacelo brevemente. Beh, sono solo il padrone di casa, in realtà. Ci tengo subito a dirlo. Il forum funziona da solo. Il forum è un organismo autoprodotto, autocostituito e che si rilancia e si propone da solo. Per cui quello che io ho accolto era semplicemente la proposta del Forum dell'Arte Contemporanea di avere una nuova edizione a Bologna. In particolare sono felice perché l'edizione, quello che avverrà domani, sarà un po' un dare la parola agli artisti, ne parleremo diffusamente, e l'idea del coordinamento del forum è stata: facciamo questa edizione a Bologna perché in questi giorni, in questi mesi, al Mambo c'è una mostra che è la mia prima mostra come direttore artistico di questa istituzione, che è una mostra dedicata ai giovani artisti italiani. Era una cosa molto importante per noi, a cui abbiamo creduto tanto, e sono contento che per questo motivo il coordinamento del forum ha proposto di fare un'edizione di questa discussione, di questo simposio, di questa bella giornata a porte aperte, aperta a tutte, proprio a Bologna. E Chiara, tu che cosa ci racconterai invece tu nel sì, Chiara Pergola, certo, qua, no, hai ragione. Siamo in maggioranza noi, Chiare. Io cosa vi racconterò? No, io devo stare zitta e anzi mi devo trattenere, perché sennò ci sono tanti ospiti che parleranno loro. Grazie al tuo intervento di abile moderatore. No, il nostro tavolo, perché non... Fortuna che domani non ho bisogno della musica di sottofondo. No, perché se tu chiedimi di ripetere quello che ha detto Lorenzo. Infatti, allora qual è stata l'ultima parola che ha detto? Sì. No. Sì, no, ti potrei chiedere se ti ricordi qual è il titolo del nostro tavolo, ecco. Perché abbiamo dato un titolo che praticamente è così lungo che nemmeno noi ce lo riusciamo a ricordare. E invece io me lo ricordo. Ecco. Sopravvivenza dell'artista, sistemi correnti e alternative di mercato. E questo è uno dei 9 tavoli del forum che approfondiscono diverse tematiche. Noi abbiamo messo al primo posto la sopravvivenza dell'artista perché in fin dei conti senza artista non c'è arte. No? E io effettivamente, perché io... ho preso per scontato che la parola sopravvivenza fosse no, esplicita. Sopravvivenza vuol dire come si sostiene un artista. E invece poi mi dicono che un sacco di gente pensava che parlassi di qualcos'altro. Ma in che senso di qualcos'altro? Non ho capito neanche io. Tipo corso di sopravvivenza. Corso di sopravvivenza per un artista. Come... Beh, ma in un certo senso. Ma forse questa è colpa mia, perché io avevo messo una nota che adesso forse leggerò. Ah sì sì, ve la leggo. Dal vocabolario Treccani online, quindi insomma. In versione ridotta. Per calco dall'inglese survival, pratica militare di addestramento in cui si impara e ci si allena a sopravvivere in condizioni ambientali difficili, usando essenzialmente le proprie abilità nel procurarsi il cibo, costruire un riparo, fabbricare utensili eccetera con i materiali a disposizione. Aggiungiamo noi NDR a questa definizione, lasciare tracce noi come artisti. Ecco, quindi forse è questo che ha fuorviato i nostri follower. Può darsi, dici che cioè ha fuorviato sicuramente me. Ha fuorviato te che non l'avevi letta. Esatto. Ecco, bene, quindi vediamo un po'. Vuoi sapere chi c'è al nostro tavolo? Dai, dici chi c'è al nostro. Una la so, posso dirla io? Sì, Chiara Ronchini al nostro tavolo. Allora potremmo subito far parlare lei un attimino. Secondo me potremmo già far parlare lei. Però magari prima, per scaldarci un attimo, volevo mettere questo pezzo che è appena uscito. È uscito ieri mattina. Senti come suona bene. Penny Lane, there is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Questa è la versione mono del promo degli Stati Uniti. Stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Pasquini, ma non hai un pezzo di Luca Rossi da far sentire? Un pezzo di Luca Rossi ce l'avrei. Luca Rossi di Parma. Ma no, certo. Quello che ci ha mandato. Sì. Voglio... Dai, facciamo sentire un pezzo dopo. Adesso intanto sfumo qui, perché a Coxo Spaziale noi facciamo così, noi accendiamo i microfoni senza che voi lo sappiate. Per cui. Ma tanto è uguale, non mi sembra che il tenore, cioè più o meno. No, però volevo dire 333 180 94 94 potete mandare dei WhatsApp o degli SMS come si deve, normali, tipo. Questi erano i Beatles con Penny Lane, non so se lo conoscevate. E cos'altro volevo dire? Ah no, niente, che 333 180 94 94. Domani c'è il forum dell'arte contemporanea al Mambo e poi abbiamo detto quali sono gli ospiti del nostro... Noi naturalmente, siccome Coxo Spaziale la faccio io parlo del mio tavolo, giusto? Certo, mi sembra giusto. E che cosa dico del mio tavolo? Non lo so, stavamo parlando dei partecipanti, adesso sì, li leggo un po'. Leggimi i partecipanti. Ne leggo un po', li leggo tutti. Innanzitutto devo ufficialmente ringraziare Chiara Pergola che mi ha supportato nel coordinamento di questo tavolo che da solo probabilmente sarebbe andato completamente in vacca. Ma non è proprio del tutto escluso che questo che possa non vada ancora in vacca succedere. Lo stesso. No, ma è perché comunque io sono abbastanza bravo nel mandare le cose in vacca. Avevo fatto un progetto per un libro, How to Fuck Everything Up, progetto per un libro. Potrebbe essere il titolo della raccolta di questi contributi. Delle mie memorie. Tipo. Ah no, pensavo dei contributi. Anche. Vabbè, allora, no, forse qualcuno si offenderebbe. No, ma infatti. Dai, vai, seriamente. I partecipanti, in ordine alfabetico naturalmente, perché... Emanuela Ascari, artista. Isabella Bordoni, artista. Flavio Favelli, artista. Anna Ferraro, artista. Matteo Lepore, assessore alla cultura, Luciano artista. Maggiore, artista, Elena Nemkova, artista, Giancarlo Norese, artista, avete capito che diamo la parola agli artisti? Effettivamente il sottotitolo di questo forum è la parola agli artisti, il sottotitolo del forum. Ecco, okay. E poi c'è una virata verso invece l'area galleristica: Fabrizio Padovani, Alessandro Pasotti, P420 galleristi, Marco Panizza, conservatore della Galleria del Premio Suzzara, Roberto Ratti, gallerista Traffic Gallery, Francesco Ribuffo, gallerista Galleria dei Foscherari, Chiara Ronchini, alla mia sinistra, gallerista Crack Terni, Luca Rossi, artista, Cosimo Terlizzi, artista, Fabio Viale, artista. Ah no, ti stavo per chiedere una formazione, perché siamo in maggioranza, esatto. No, sì, di punta. Effettivamente siamo in un sacco. Come facciamo a parlare tutti quanti, visto che il tempo è tiranno ed è pochissimo? Allora, io porto una clessidra, quella che si usa per il tè, dove ci sono 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti. Ruolo, come Pictionary. Tu cosa porti, Lorenzo, domani? La frusta, credo. Ah, fantastico. Ma tu dove sei fisicamente? No, lui scappa e si nasconde in ufficio. Esatto, mi nascondo nei bagni o in ufficio per evitare il peggio. Ah. Però no, in realtà sono tantissimi i tavoli a cui vorrei partecipare e più che altro di cui vorrei sentire la discussione, però certo, sarà impossibile. Peccato quindi che nessuno ti abbia inventato in nessuno dei tavoli. Esatto, sono molto offeso di questo qua. Vabbè, succede così. Vabbè, se proprio insisti ti invitiamo noi, però. Vedo che siete già 35, quindi con un tempo di relazione personale di un minuto e 28 secondi, esatto, che è la classifica clessidra di Chiara. Ecco, ma infatti io per ma infatti quella clessidra lì che tempo fa intanto? Ah, 5, allora è da 3, da 4 e da 5. Comunque è io per gli spaghetti. Sì. Per il tè, sì, che ci sono le cose. Ah, di, fantastico. Gialla, verde e rossa, sono tre clessidre insieme e quindi noi le mettiamo davanti a chi parla per farlo sentire proprio a suo agio, no? Ho capito. Tu come la prenderai, Chiara? Ma io improvviso sempre. Ah, quindi non ti turba questo? No. No, assolutamente. No, ma poi Chiara è ternana, per cui cioè, pronta a tutto, cioè pronto veramente, cioè puoi fare la terra delle clessidre, infatti. La terra delle clessidre. Io sono pronta a tutto, improvviso. Perfetto, anche noi siamo su questa lunghezza d'onda, quindi saremo in assoluta sintonia. E no, niente, le clessidre, e poi come faranno a parlare tutti? Ma forse non ci riusciranno, non lo so. Io ho passato i giorni scorsi a cercare di parlare il più possibile con le persone per cercare di alleviare il senso di frustrazione per il fatto che domani avranno solo questi 5 minuti. Ah, fantastico. Quindi ormai sono nella mia per testa, c'è fatto un bagaglio di informazioni assolutamente esagerato che non credo che riuscirò a restituire. Però, infatti, no, so che stai incollando tutti e stai facendo un documento di 750 pagine che poi a chi consegneremo? Ma non lo so, io avrei voluto consegnarlo nelle mani di Giancarlo Norese, perché che è uno dei nostri ospiti e che ha questa casa editrice, la Centrale Edizioni. No, mi piaceva, adesso faccio una piccola parentesi di serietà, Dai. Mi piaceva l'idea, anche se devo dire che non ha ricevuto poi molti applausi di incoraggiamento, che dal forum uscisse qualche cosa anche di concreto, visto che la parola agli artisti, insomma, a sostegno delle attività molteplici che gli artisti fanno, insomma, spesso mettendoci delle proprie tasche. E quindi, ma poi alla fine questa cosa si sarebbe risolta in un crowdfunding, quindi non sarebbe cambiato nulla. E quindi si vedrà come va questa cosa, però adesso, a parte gli scherzi, ci sono veramente tante riflessioni anche molto belle che sono emerse in questi giorni, diciamo, fuori dal tempo tiranno della clessidra, e che spero che in qualche modo, sì, dal nostro tavolo, ma anche dagli altri, credo. E l'obiettivo è questo, l'obiettivo è, come stai raccontando, quello di innanzitutto creare un dialogo antecedente, quindi quello che state facendo, come stanno facendo anche gli altri 8 tavoli, che saranno 9 in tutto, è proprio questo confronto. Domani ci sarà un momento di apertura al pubblico per aumentare i contenuti possibili, le letture, le chiavi di interpretazione, ma quello che chiederemo ai tavoli e quello per cui il forum ha funzionato anche in passato è proprio quello che stai dicendo: arrivare a prospettive concrete, a proposte che come forum si possano fare gli organi competenti per cambiare un po' lo status quo. Ci sono tavoli che hanno una finalità più smaccatamente indirizzata ad arrivare a una proposta concreta, quelli ad esempio che trattano della formazione degli artisti, sì, dei metodi per sovvenzionare un artista nelle produzioni, non solo, anche nelle sue attività, altri meno, quelli che ragionano ad esempio sull'etica dell'essere artista, il posizionamento dell'artista nella società. Però quello che si discuterà nel pomeriggio, in cui invitiamo tutti a partecipare, è cosa possiamo fare di concreto per provvedere. Esatto. Cosa possiamo fare di concreto? Chiediamolo a Chiara. Metti una canzone. Posso mettere? Quando parliamo? Posso mettere una canzone che si chiama End of Democracy? Cosa ne dite? Ma sì, dai, va bene. Le nostre richieste quando? Perché siamo venuti qua per questo. Le richieste adesso me le fate. Cosa ti devo ricordare, Chiara? Che noi faremo anche la parte interattiva nel nostro tavolo. Hai ragione, noi faremo la parte, ma davvero faremo la parte anche interattiva. Cosa significa che faremo la parte interattiva nel nostro tavolo? Nel senso che noi non relegheremo il pubblico a ruolo passivo. No, infatti abbiamo escogitato, oggi siamo andati a vedere lo spazio dove ci sarà il nostro talk, e abbiamo trovato uno schermo che è grande come questo acquario, ovvero tipo 1,5 metri x 1 metro, e abbiamo escogitato questo fantastico modo per interagire col pubblico, ovvero sempre che tu riesca a superare questo problemino tecnico che avevi stasera. Tu devi fingere che io l'abbia già fatto. Certo, comunque. No, in realtà l'ho già superato mentre stavo cercando la musica, certo, di Cox. Scusa, se ho potuto. Ci sarà questa pagina web in cui chiunque può lasciare un messaggino e i commenti appariranno online come se foste su www.radiocittafugico.it, in cui potete lasciare gli sms al 333 180 94 94. Esatto, tutto in diretta, tutto così. Contemporanea. D'altronde è il forum dell'arte contemporanea e noi abbiamo pensato di far agire tutti contemporaneamente. Esatto. Wow. Wow. Chiara Ronchini, sì? Sei tornata a Bologna. Quanto tempo era che non venivi a Bologna, innanzitutto? Perché forse bisogna raccontare anche chi sei. Cioè, tu sei stata curatrice di una galleria fantastica chiamata Sesto Senso. E che mi lasciasti tu le chiavi. Ah, io? Tu e Stefano Questioli. Cavolo. Ah no, è vero, no, infatti è stato Stefano Questioli. Ma c'eri anche tu. Esatto. Perché sì, io ti ho sì, conosciuto sì. Là, hai ero ragione. Piccolissima, ci avrò avuto 19-20 anni. Sì, sì, mi ricordo benissimo che ci siamo bevuti una birra e ti ho detto, ma io faccio le cose così, tu fai un po' quello che vuoi. E io, ma chi mi insegna? Nessuno. Fai, esatto, inventati. Fate. Ma io non ho mai fatto nulla. Fai. No, ed effettivamente quell'esperienza in una di fatto era, cioè, molto simile a un artist run space, no? una galleria no profit. Penso che in realtà sia stata interessante. No? Mi ha insegnato più quella che 7 anni di università. Ah, ecco, questo vedi. L'università della vita è questa. Eh sì. No, il Sesto Senso, sicuramente alcuni dei nostri radioascoltatori più anziani se lo ricordano, perché ormai è chiuso da, se non sbaglio, da 6 anni. Era questo circolo Arci che inizialmente, quando ero addirittura piccolo anch'io, a metà degli anni 90, era nato e prestava i CD. Non so sì, se te lo ricordi. Me lo ricordo perché c'era ancora che uno una poteva parte... andare, faceva la tessera Arci e si faceva prestare i CD di musica che portava a casa, naturalmente li copiava, sì, eccetera, li metteva su cassetta magari. E poi non lo so, io ero a New York, sì, un giorno sono passato lì davanti e non so perché qualcuno mi ha detto dovresti fare una mostra lì, e poi ho fatto una mostra lì, e dopo che ho fatto una mostra lì e sono tornato da New York e mi hanno detto ma vuoi anche gestire tutte le prossime mostre? E così ho fatto per 2 anni e dopo ho mollato la palla a Stefano Questioli, che a sua volta l'ha mollata a me. Esatto. E dopo non so chi ha... Ah no, dopo c'è stata la... Anita. C'è stata Anita, ci sono stata io... E poi sì. E comunque il bello di quello era lo scoprire talenti, no? C'avevo la fila, tutti i giorni venivano là per fare una mostra. È stato un po' disfatto. Ma la ragazza qui accanto a me, la mostra gliel'ho fatta io, diciamolo. No, ne stavamo parlando prima. Se non avessi incontrato Chiara, a questo punto lavorerei in banca. A proposito di sopravvivenza dell'artista, ma oltre a fare quello che fate, a parte forse Lorenzo, che lavoro fate? Dobbiamo rispondere tutti. Sì, che cominciamo da Esther, visto che doveva lavorare in banca. Tu fai solo l'artista o fai anche qualcosa? Anticipiamo un po' il forum di domani. Sì, anticipiamo. Allora, bella domanda. Io sono libero professionista, quindi partita IVA. Solo l'artista. Che è un lavoro multidisciplinare, quindi spazio dall'illustrazione alla pittura. E... sì, lavoro come artista. Fai solo l'artista. Libero professionista. No, tra l'altro questo è un argomento che andrebbe trattato domani, il fatto che quando ho aperto la partita IVA, la mia commercialista mi ha detto non esiste un codice che può identificare la tua attività. Anche curatore. Esatto. Quindi vuol dire che un santone. Esatto, curatore è quello. Anche perché magari spostato un po' il microfono in mezzo. Il termine curatrice era quello. Curatrice era una sorta di balia. Che di fatto, cioè negli anni 50, nel dopoguerra, anzi, fra l'altro Franco Vaccari ha fatto una mostra su questo, che si chiamava Sul palmo di mano, dove raccontava appunto che nella zona di Carpi c'erano queste curatrici, per cui se tu avevi un bambino che stava male, prima lo portavi dal medico, se il medico non riusciva a curare, loro riuscivano, ma spessissimo davvero curavano, per cui la parola curatrice in realtà nasce da questo. Dal curare i bambini malati. Il curatore, giustamente. Cura l'artista. Esatto, cura dei bambini malati, che saremmo in questo caso io, Esther e Chiara Pergola. Sì. Giusto? Profondamente malati di arte. Cioè, mi domando se si può rintracciare il percorso, diciamo, storico di questa parola, la sua transizione dalla medicina. Ma torniamo ai lavori. Io ho fatto il grafico fino a poco tempo fa, adesso mi hanno chiamato a insegnare all'Accademia di Belle Arti di Torino e faccio il grafico, cioè insegno tecniche grafiche speciali lì. E tu invece insegni Chiara Pergola? Io invece insegno matematica in una scuola media, e dico quale? Prestigiose Donini Pelagalli di Castelmaggiore. Fantastico. E sono part time e poi ho anche la mia piccola partita IVA. Io ho trovato un codice che corrisponde alla mia attività che mi piace veramente molto. Anzi, la mia apertura della partita IVA è stata in qualche senso illuminante. Sì, perché non riuscivo a capire io stessa che cosa facessi come artista. E poi ho trovato questo codice che è fantastico, che è altre creazioni artistiche letterarie. Infatti, quando me l'hai raccontato, varie ed eventuali. Dopo il forum di domani potremmo creare un codice. Sarebbe bello. Cavoli, è geniale. Questa è una proposta bellissima. Un applauso. Un codice per gli artisti contemporanei. Anche da parte sicuramente di Fabio Cavallucci. Assolutamente. Che non ci starà ascoltando, ma sicuramente. Non ci sarà un commercialista domani? No, non abbiamo. Ma magari stai ascoltando adesso. Se qualcuno, lanciamo questo appello. Commercialisti in ascolto. Esatto. No, io in realtà sto pensando un attimo a quelli che invece non sanno niente di arte contemporanea, che si chiedono ma di che cosa state parlando? Cioè, il motivo per cui non c'è un codice di partita IVA per noi quello. Artisti è perché non c'è, cioè non il mondo non sa nemmeno che esistiamo, cioè non prevede che voi lavoriate. Non è che non sa, non ha ancora capito, compreso quello che realmente fate. Esatto, diverso. Tu l'hai compreso, Chiara. Io Ronchini. Certo, ci ho speso tutta la mia vita. Prima domanda, innanzitutto, hai un secondo lavoro o fai solo la gallerista? Faccio solo la gallerista. Ok. Da 2 anni però solo la gallerista. Grande. Ma quindi Stefano, noi siamo in minoranza qui, perché Lorenzo Balbi fa solo... Io faccio solo il papà. Solo il papà, anche la mamma. Devo rispondere così. L'avevo dimenticato. Perché ti ascoltano da casa. Esatto, non lo so, però a scanso. Che sicurezza. No, anche tu infatti. Faccio la mamma, sì, è vero. Però comunque anch'io sulla carta d'identità ho scritto... storico dell'arte, credo, perché comunque il curatore non esiste. No, io effettivamente, siccome la devo rinnovare tra poco e il mio stipendio viene dall'Accademia di Belle Arti, mi sono chiesto, ma dovrei scrivere professore anziché, perché adesso c'è scritto artista, che fra l'altro quando si è sposato mio fratello, il tizio del... io dovevo fare da... come si chiama? Da testimone. E ha letto artista e stava per scrivere autista. Guardi che è una R. No. Cioè, proprio, bellissimo. Però effettivamente ho dovuto anche un po' così un po' litigare con quella del comune, perché non voleva scrivere artista. Ho detto, ma perché non vuoi scrivere artista? Qual è il problema? Tu hai scritto artista, Esther, giusto? Ho scritto libero professionista. Libero professionista. Ho letto giorni fa un articolo si tiene aperte tutte le porte. Certo. Esatto. Sia mai che ho letto un articolo di Flavio Favelli che volevo citare. Citiamo Flavio Favelli. Cosa raccontava? Sì, raccontava che quando ha dovuto chiamare l'Enel per l'allaccio dell'elettricità, e la ragazza al call center non sapeva quale opzione mettere, no? Perché chiaramente non poteva scrivere artista e quindi non gli hanno allacciato la luce. Ah, addirittura non gli hanno allacciato la luce. Non lo so come è andata a finire, però sì, effettivamente è un problema. Sì. Per cui salutiamo Flavio Favelli che sta lavorando a lume di candela e non ci può ascoltare perché non prende Radio Città Futura. No, e poi soprattutto se non hai l'elettricità è abbastanza difficile. Ho capito. E ora l'altro giorno, la saluto, la Francesca di Simpress 44 mi ha spedito un pezzo di Riccardo Ceres, che è uno che fa tipo musica western, Spaghetti Southern l'ha chiamato l'album, e adesso ve lo faccio sentire così magari riusciamo anche a uscire da questa impasse. dalla collina con una 127 lucente. Uno non aveva una mano, uno non aveva l'altra mano. Uno aveva tre mani di tre sette pronte nella tasca posteriore dei pantaloni, perché 300.000 lire fanno sempre comodo. Come i lupi con i conigli, come i lupi con i conigli, discesero la collina. La bella lo guardò e lo lasciò coi lupi, e la bella lo guardò e lo lasciò coi lupi. Loro sostengono. Ecco, ti ho fregato. E... Cioè, oddio. No. Ah, sei tornato là. Amore. Sono tornato qua. E no, dicevo. Domani dunque cosa succede? L'appuntamento è al Mambo in via Dominzoni 14 alle ore 10 di mattina, giusto? E confermi? Ok. Poi il pubblico che cosa può fare? Ma alle 10 ci sarà un momento di iscrizione, perché speriamo non sia troppo confusionario, però abbiamo, grazie alla fantastica collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, avremo parecchi ragazzi che aiuteranno anche il pubblico a distribuirsi nei luoghi più opportuni. Ci sarà una prima fase di iscrizione, in realtà non è una vera e propria iscrizione, perché il forum è aperto a tutti, è gratuito, non ci si deve iscrivere, semplicemente quando si arriverà al Mambo si potrà scegliere a quale tavolo partecipare, e questi ragazzi insieme al personale, lo staff del Mambo sarà utile per dirigere le persone verso il tavolo di discussione che interessa. Ringrazio, visto che stavo ringraziando l'Accademia, devo ringraziare anche il Dams Lab, perché domani aspettiamo moltissime persone per questi tavoli e il Mambo non sarebbe bastato, e quindi abbiamo chiesto ospitalità ai nostri vicini di casa. Cioè sarebbe bastato, ma bisognava disinstallare un giorno prima la tua mostra, giusto? Sì, che però è stata prorogata fino al 6 gennaio, quindi pare brutto. Per cui questo fantomato, questo fantomatico finissage invece è un trasformato in un rilancio. Come sta andando quella mostra a proposito di questa That's It? Non devi chiederla a me, che l'ho curata. Abbiamo fatto, voglio dire, lo chiedo a te che sei il curatore, sei soddisfatto sono di questa? Estremamente soddisfatto. I Piranha come stanno? I Piranha sono cresciuti di 3 volte rispetto a quando sono stati, sono entrati nel museo, e questo è bene, vuol dire che si trovano bene. Si trovano a loro agio. Sì, sono decisamente a loro agio. I poveri ragazzi che devono dargli da mangiare senza farsi azzannare le dita sono bravi ormai. No, la mossa sta andando bene. Abbiamo sfondato la quota di 15.000 biglietti, che è un dato molto importante per il museo, per Bologna, ma anche per una mostra di giovani artisti italiani. Infatti. Perché bisogna dirlo, io sono molto orgoglioso di questo risultato. Adesso ci aspettiamo che con questa proroga aumentino ancora di più. È stata la prima volta che ho dovuto fare la fila per vedere una mostra. Bene, bene. Io sono ancora commosso, mi ricordo siccome è la mia prima mostra, mi ricordo i primi giorni che arrivavo in ufficio e vedevo la gente che faceva i biglietti per entrare nella mia mostra, li stavo a guardare dal divanetto, dicevo, ma veramente questi entrano dentro? No, è bellissimo, è un buonissimo risultato. La mostra inaugurava in un momento, dal punto di vista anche della fruizione dei musei, se vogliamo, infelice. In realtà per la città molto felice, perché d'estate ci sono tantissimi turisti a Bologna e la mostra è stata visitata per il 56% per ora da stranieri, quindi è ancora più bello questo dato. Sì. Però adesso andiamo in un periodo in cui il nostro meraviglioso dipartimento educativo è attivissimo, sono tantissime le scuole, quindi ci sarà anche un tipo di fruizione diverso e quindi ci aspettiamo ancora che si migliori questo dato degli accessi. Poi ovviamente il forum è un'occasione per riflettere, per aprire anche le discussioni che questi artisti hanno portato sul tavolo a una platea più ampia, e la scelta che è stata fatta è quella di prorogare questa mostra arrivando fino al 6 di gennaio, quindi sarà la fine ufficiale della mostra sarà il 6 di gennaio, in modo che la prossima mostra inaugurerà durante la settimana dell'arte a fine gennaio, che è la settimana dell'arte a Bologna, che coincide anche con Arte Fiera, che attivato un percorso di rinnovamento molto importante, quindi anche noi come Mambo vogliamo supportarli con un'apertura durante quella settimana. Ma possiamo già chiederti che cosa succede? Certo che potete chiederlo, perché è stata già annunciata e inaugureremo appunto il giorno prima della fiera la prima personale in Italia di Mika Rottenberg. Mika Rottenberg è una videoartista di origine israeliana, anche se lei è nata a Buenos Aires e vive a New York, quindi è un passato, che è un'artista molto importante, una delle star del sistema internazionale. Chi un po' ha visto alcune importanti manifestazioni negli ultimi anni sicuramente avrà visto le sue opere alla Biennale di Venezia o a Sculpture Project a Münster, però non ha mai avuto una mostra in Italia, e quindi siamo molto contenti che abbia scelto il Mambo per realizzarla. E quindi ti metto un jingle per questo. Vai. Arte contemporanea. Ecco. Te l'ho messo. Che bello. Vero? Questo è molto poetico. Mettilo come ringbell del cellulare. te lo mando. Questo era mio figlio Nicola, che saluto, quando avrà avuto forse quando ho fatto la mostra dalla Chiara Ronchini a Terni, sei anni fa. Voi in realtà la prima ricordi qual è stata insieme? La Arte Fuori. Arte Fuori, certo. Per la prima edizione di Arte Off dell'Arte Fiera di Bologna. Hai capito? Ah, fantastico. La prima edizione di Corsi e Ricorsi. E tu portasti un video. Che video ho portato? Sai che mi stai... Io mi ricordo tutto. Brava. Perché c'è tutto, quasi tutto. Io invece non mi ricordo niente, come voi tutti ben sapete. Un video tuo fantastico. C'era anche Yumi che appariva piccolina. Un video amatoriale. Video arte però ci ha inserito anche. Un video amatoriale, certo. Cioè, voglio dire... No, era bellissimo. Io non ho la partita IVA dell'artista, per cui è un video amatoriale. Il tuo fu, e lo mettemmo alla grata. Alla grata, che cos'è? Era un locale gigante. Che poi non lo so se alla grata più. Sembra tipo alla berlina. No, avete visto, ma secondo me se lo sta inventando. Vicino via del fratello, un locale gigante. Alla grata. Penso che no, forse esiste ancora, chi lo sa. C'erano Coniglio Viola insieme a te, MP5, Le Toulette. C'erano salutiamo tantazione. Le Toulette. Anche poi Brice, salutiamo. C'era lui lo mandammo direttamente, la sua incursione artistica fu direttamente dentro l'Arte Fiera e portò poi il video di quello che fece, lo fece insieme a una stilista, che adesso non pronuncio perché me la ricordo bene, una stilista inglese, però mi intreccio, quindi faccio... Ok. Vivian Westwood. Una stilista da niente, capito? No, l'inventrice vestì, della... Vestì, cioè l'inventore vestì, della minigonna. Vestì lui e il suo... Ho sbagliato. Sai che forse ho sbagliato? Di cosa? No, lei era Vivian Westwood. Non è l'inventrice della minigonna? Sai che forse mi sto sbagliando? Solo Google può saperlo. No, l'inventrice della minigonna è un'altra. Vestì Bice e il compagno, no? Erano in due. Era quella che vestiva i Sex Pistols. Dovevano girare dentro l'Arte Fiera e fare un video, una roba. Sei l'origine di tutto. Esatto. Però quella... il centro del mondo è Chiara Ronchini, che non sarebbe poi passata per la gallerista giovane all'interno di questo gruppo, infatti, quindi sarà paradossale, no? Sei l'artista giovane che... No, in realtà io ho fatto tante cose perché non ho mai detto di no a ogni proposta. No, dici anche che la prima mostra che hai fatto curare a Lorenzo Balbi l'ha curata. Sì, ha creato la minigonna, è Mary Quant. Volevo dire che se faccio una ricerca su Google con la parola inventrice, viene fuori per seconda inventrice della minigonna. Lo cercano in tanti. Sì, la prima adesso non lo fa più, però insomma comunque è la seconda. L'altra è l'inventrice del mocio. Questo non è bello. Allora approfitto per ricordare, visto il tema, approfitto per ricordare, partendo proprio da questo, infatti, assolutamente, la presenza tavolo, di alcuni altri tavoli. Ma anche il nostro in realtà sarà serio. Cioè, è che stasera siamo a Coxo Spaziale, per cui più seri di così non ci si fa. Ecco, allora cominciamo subito con, come dire, per par condicio, esatto, al tavolo di Annalisa Cattani e Stefania Galgati Shines, che è osservatorio attivo diversità di genere, quindi diciamo cerchiamo di come dire, compensare un po' le storture di un sistema che in qualche senso ci mette di un sistema o di una nazione? Ma di un sistema, di una nazione, di un mondo. Di un mondo, tutto. Comunque c'è molto lavoro che viene fatto nella direzione giusta, quindi sì, sono fiduciosa. Siamo tutte fiduciose. Sempre. Sì. Tu sei fiduciosa? Sì. Lo dice senza convinzione, però lo deve dire, deve dire così. Deve. Con due figlie femmine deve essere allora hai dato il tuo contributo. Esatto. Grazie. Padre di figlie duenni. Ecco. E poi ci sono altri tavoli che leggo in ordine sparso. La posizione dell'arte e degli artisti nella società contemporanea, coordinato da Gianmarco Montesano. Etica e arte contemporanea di Stefano Boccalini e Virginia Zanetti, coordinatori. Così intanto magari chi ci ascolta può iniziare a fare le proprie riflessioni sul tavolo a cui iscriversi domani, che si iscriveranno tutti in massa, vero Stefano, i tuoi ascoltatori? Certo. No, assolutamente. I miei quattro ascoltatori, secondo me, si iscriveranno tutti a formazione. Formazione? coordinato da Eva Frappicini e Cesare Pietro Iusti. Perfetto. Perché così imparano qualcosa. Esatto. Riusciranno a capire di più le tue proposte. Forme di sostegno per l'arte, l'abbiamo già detto? No. Coordinatrici Elena Maffi e Anna Franceschini. Sì. Adesso mi hai incasinato. Perché io sono andato nella pagina. Sei andato a leggere un'altra pagina, quindi artista e museo l'abbiamo già detta. No. Artista Stefano e museo. Stefano Aniente e Arianna Rosica. Esatto. Mm. Professionalità o sostenibilità? Quale dimensione per l'artista? Emilio Fantin e Alessandro Nassiri. Qua io prevedo anche diversi punti di contatto col nostro. Forse avremmo potuto fare una di quelle operazioni di ottimizzazione, no? Critica e linguaggio nelle pratiche dello spazio pubblico, l'avevamo detto, no? Non credo. Coordinatrici Ilaria Lupo e Beatrice Catanzaro. Ecco, secondo me adesso li abbiamo detti tutti. Dici. Poi magari fra un po' li rileggiamo, perché abbiamo fatto obiettivamente un po' di confusione. Infatti, ecco. Etica e arte contemporanea l'abbiamo detta. Sì, l'avevamo detta. Sopravvivenza dell'artista, sistemi coerenti, alternative di mercato, l'avevamo detto? Mi sembra di sì, che ne abbiamo un po' parlato, però se vuoi ci ritorniamo sopra. Ok. Torniamoci sopra. No, in realtà alcuni dei nostri invitati hanno detto: io vengo, metti il nome, però non parlo. Ma questo comunque è un fatto positivo. C'è perché... anche chi ha detto non vengo ma parlo, e quindi avremo interventi filmati, infatti, assolutamente. Videomessaggi, audiomessaggi, scritti di Bifo da leggere. Ah, fantastico. Ah, ecco, perché poi io riflettevo, apro questa parentesi culturale. Sapete cosa ho fatto? Apro una parentesi. Nella parentesi. Nel numero 77 di Coxo Spaziale ho telefonato a Bifo solo perché era la puntata numero 77 di Coxo Spaziale. Penso che era appena tornato dal Messico e mi ha un po' odiato perché quando gli ho spiegato perché avevo chiamato lui. Comunque, scusate. Bene, allora apro una terza parentesi nella parentesi e colgo l'occasione per dire al gentile pubblico. Messico, no, volevo dire qualcosa su Bifo. Volevo raccontare un piccolo aneddoto su Bifo che negli anni 70, forse proprio nel 77, dei cari amici di famiglia avevano un gatto che avevano chiamato Bifo. Era un bellissimo gattone tutto nero. Finita così. È finita così. Però adesso abbiamo chiuso la parentesi. Dovrei riuscire a ricordarmi l'inizio. Forse era questo. Mi sembra di avere intraletto che una delle questioni che propone Bifo è il superamento dell'artista come figura storica, giusto? Confermo. Benissimo. E allora a me interessava molto, questo spunto di riflessione. Lancio questo input, che il nostro tavolo, che si chiama Sopravvivenza dell'artista, sembra un po' andare in controtendenza, no? Rispetto a questa ipotesi di superamento della figura, che forse è anche una cosa con cui potrei concordare. Però mi domandavo se l'artista non possa essere un po' come l'operaio quando c'è stata la figura del superamento della figura dell'operaio, no? Che poi in realtà gli operai comunque continuano a esistere, continuano a dover mangiare, no? E però continuano... vengono pagati meno. Esatto, però vengono pagati meno. Quindi il superamento è quello, questo sia superamento. Prima magari avevi uno stipendio non decente. Vorrei che, cioè, adesso, vabbè gli artisti questo, siamo già al di sotto di uno stipendio. Sì, infatti, decente, nel nostro caso noi forse non si poteva peggiorare. Beh, no, ci potrebbero sempre chiedere di pagare, che ci sta mai arrivando. No, infatti, prima di dire che non si può peggiorare, aspetta. Esatto, perché ecco, innanzitutto potremmo essere, cioè ci potrebbe essere impedito di parlare, per esempio, cosa che non è troppo lontana da quello che da quello che può succedere, insomma. Detto questo, questa trasmissione di solito ha una cosa che si chiama l'angolo della menzione. che significa che domenica alle, no vabbè, a parte domani che l'abbiamo menzionato, che domani c'è il forum dell'arte contemporanea al Mambo, per cui qualsiasi altra cosa che succede sabato non ci interessa. Invece domenica 11 novembre alle ore 17 c'è un concerto scenico chiamato La musica degli angeli del duo italo-tedesco Commedia Nova, e questo è ingresso ad offerta libera, e questo all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi 4 a Bologna. E invece volevo anche menzionare un'altra cosa, che è venerdì della settimana prossima, poco prima del prossimo Coxo Spaziale, c'è una mostra in cui, siccome è in un posto poco deputato per l'arte, ci tengo a raccontarvela, che si chiama Visioni Mutevoli, ed è una mostra personale di Marco Ficarra, disegnatore e autore del fumetto Stalag XB. Metti le mani sugli occhi e dimmi cosa vedi. Visi, sguardi, pose, bla bla bla bla bla. Questo è a Modo Infoshop in via Mascarella 24B a Bologna, sempre, ed è venerdì 16 alle ore 18. È finita la menzione. Ok, potete ricominciare a parlare di altre cose. Ecco, ho scoperto cosa è successo. Bene, è la musica di sottofondo è morta, però ho trovato un pezzo così. Non male. Questo è il nastrone di Radio Città Fuggivo che mi sta salvando, perché è morto il computer. Voi siete al Coxo Spaziale, sta finendo anche il nostro tempo, visto che la nostra Mighty è arrivata così quatta e ci sta diciamo, esatto, ci sta da, ok, vabbè, sappi che è tutto ok. Io qua vedo ancora 7 minuti. Tu qua vedi ancora 7 minuti. Ma perché sono, tu non sei di qua, mentre invece qua io ne vedo ancora 4. Però no, sì, torniamo tutte le settimane. Abbiamo fatto delle richieste di musica, ma minimamente considerate. La tua richiesta di musica in realtà è qui che ci aspetta. Che sarebbero. Si chiamano Off Montreal. Vedi? È grande. Siamo tutti d'accordo che piacciono. E... non pensavo fossi così indie. Vedi? Non è colpa mia, è colpa di un mio carissimo amico palermitano che si chiama Ennio Pellicanò, e che ha uno spazio bellissimo. Si chiama N38E13, che è un artist space, ma è anche un bed and breakfast magnifico. Ecco, questo fa dei programmi di residenza a proposito di via Machetto. E Ennio, esatto, l'ultima volta che siamo visti mi ha portato in giro per Palermo con questa musica, e da allora fantastico. Ho una sorta di ossessione. Bene, ho capito. E dunque adesso, fra non molto, ce l'ascoltiamo e salutiamo i nostri simpatici radioascoltatori. O abbiamo qualcos'altro da raccontare per domani? Secondo me ci mancano dei pezzi. Allora, vogliamo leggere qualcuna delle domande, delle numerose domande? Ecco, sì, assolutamente. Io non posso più leggere niente perché il computer è morto. No, ma io ho tutto in cartaceo perché sono una persona vecchio stile. Quindi... E all'interno di questa fantastica radio direi che il vecchio stile funziona molto bene. Perfetto. Dunque, domande che noi abbiamo posto nella discussione preliminare, che inviteremo anche chi ci segue dal pubblico e anche gli ascoltatori stessi a trovare la loro risposta. Che ruolo pensi abbiano in Italia le gallerie private? Rispondo io? No. No, dovevamo far sentire tutte le risposte di Luca Rossi. Queste però le metti sul sito. Allora, da domani... È morto tutto. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com vi prometto che metto quel file lì dopo tutta la trasmissione, perché è bellissimo. Dopo ancora gli off Montreal, però. Esatto, perché è bellissimo, cioè, perché noi abbiamo fatto adesso, non lo so, vado a occhio, circa 100 domande e lui le ha risposte tutte in 24 minuti. Fantastico. Luca Rossi, ma è bellissimo. E adesso erano tutti sì, no? Erano accrescette le domande. È riuscito anche a dare una certa profondità. Devo dire che sono uscite delle cose interessanti. Io non posso parlare bene di Luca Rossi perché sai Luca Rossi. Non è che sono un po' anche Luca Rossi. Sono un po', sì. Sei Luca rossizzato. Mi hanno Luca rossizzato. Infatti non ho capito in quanti sono. 61 l'ultima volta che 61 Luca chiesto. Rossi? Ah, fantastico. Ma vengono tutti domani. Cioè, però vengono meno tutti domani, però hanno mostra. Uno spazio. No, gli artisti mostra sono meno. Luca Rossi, sì. È tanti, è uno e trino, è uno e sessantunino, è uno e sessantuno, no, è più alto di uno e sessantuno, però è uno, però io ho letto solo due domande, leggine altre 150. Allora, quale ruolo pensi dovrebbe avere una galleria? Quali aspettative genera negli artisti la galleria? Quali problemi pone al mercato la continua crescita di offerta espressiva? Poi ci hanno detto dei galleristi che questa dell'offerta espressiva non è assolutamente un problema, che l'offerta c'è perché c'è la domanda. Cioè, il contrario di quello che io pensavo, non so. Tu concordi? Ci vorrebbero altri due o tre coxi spaziali per affrontare questa cosa qua. Possiamo pensare ad un sistema capace di assorbirla tutta l'offerta espressiva del mondo? Cioè, forse questo è un obiettivo un po' ambizioso, lo ammettiamo. Quale progetto politico può sostenere quest'idea? La rivoluzione, direi, è l'unica. È l'unica. Il coinvolgimento di altri interlocutori del mondo produttivo può essere una chiave di volta? Pensi che sia compito delle gallerie coinvolgere il pubblico? Pensi che sia compito delle gallerie coinvolgere il privato? Le gallerie d'arte, secondo te, appartengono al settore della cultura o del commercio? Che rapporti ha e dovrebbe avere la galleria col territorio? Dal tuo punto di vista, c'è competizione tra le gallerie? Però dopo poi cambia anche tenore, perché a un certo punto chiediamo, in base alla tua conoscenza del sistema, quanti degli... No, questo ancora sulla galleria, non leggiamola, sarà noioso. Quale autonomia può essere? Mi sono un po' incasinata, Stefano Pasquini. Ti devo aiutare? Hai mai lavorato al di fuori dell'ambiente artistico? In base alla tua esperienza, in altri ambienti? Sì. Tutti sì. No, tutti no, noi, solo io e Stefano qua. Beh, qui... Sì, insomma, un 40% scarso. In base alla tua esperienza, in altri ambiti i rapporti lavorativi funzionano in modo diverso che nell'arte? C'è maggiore consapevolezza e regolarità? Hai mai avuto un agente? Eccetera, eccetera. Ma poi erano belle quelle... Perché man mano che va avanti la lista delle domande diventa sempre più metafisica. Ma io ti devo interrompere perché è finito Coxo Spaziale. Sono le 20:58, dobbiamo almeno mettere... un inizio di questo pezzo dei Off Montreal, salutarvi non tutti e ringraziarvi. Esatto. E io ringrazio tutti quanti, Chiara Ronchini, grazie Esther Gross, Chiara Pergola e Lorenzo Balbi. Grazie, e poi naturalmente ci vediamo tutti quanti, puntuali mi raccomando, alle 10 davanti al Mambo, prima ancora che esso apra. Questo era Coxo Spaziale e questo effettivamente è un gran pezzo. Sì. Ciao a tutti, grazie davvero. I'm cercare di rispondere a tutte le domande nel più breve tempo possibile. Che ruolo pensi abbiano in Italia le gallerie private? Le gallerie private cercano di avvicinarsi a questo sistema di mercato internazionale e diventano spesso delle rivendite di artisti importanti internazionali a cui affiancano dei giovani. E spesso i giovani sono necessari per andare a intercettare il collezionista che può spendere poco e quindi gli proponi un'opera che assomiglia a Boetti o un altro esponente dell'arte povera e in qualche modo lui spendendo 5-6 mila euro ha, o anche meno, ha un'opera simil Boetti, quella che Luca Rossi ha definito appunto Ikea evoluta, che è una forma di artigianato, una forma di modernariato su cui non c'è nulla di male, ma è lontana anni luce con il concetto di ricerca contemporanea e di arte contemporanea. L'arte certo è tutta contemporanea, ma non tutta l'arte ha lo stesso valore. Che ruolo pensi che dovrebbe avere una galleria? Una galleria ha un ruolo che dipende anche da che tipo di lavoro vuol fare una galleria. Esistono le gallerie talent scout, posso ricordare il lavoro pionieristico e prezioso di Lino Baldini che aveva una galleria che faceva un lavoro tra un servizio quasi pubblico di scoperta dei giovani talenti e i primi passi nel mercato. Queste esperienze non ne sono quasi rimaste, abbiamo degli spazi no profit che in realtà però hanno un'impostazione che vorrebbe diventare profit, e poi abbiamo grandi gallerie che sono appunto rivendite di artisti internazionali. E quindi dipende molto il ruolo della galleria, dipende molto da qual è l'obiettivo del gallerista, ovviamente, qual è la fascia di mercato su cui si vuole posizionare. Sicuramente bisognerebbe tornare a parlare di valore e non di prezzo, non perché siamo buoni e francescani, ma perché il valore aiuta la vendita, la critica aiuta il valore e il valore aiuta la vendita. E invece oggi parliamo solo di curriculum vitae, quindi di luoghi e pubbliche relazioni per riuscire a tirare sul prezzo e a vendere l'artista. E questo avvelena il mercato, ma questo avviene già da anni, quindi il mercato è totalmente avvelenato e oggi ci troviamo con delle proposte di 40-50 anni fa, fatte anche da giovanissimi, e un sistema che italiano che può essere una palude, è un sistema internazionale non troppo diverso perché basta vedere appunto la vicissitudine dell'opera di Banksy per capire. Quali aspettative genera negli artisti? Gli artisti è chiaro che piuttosto che andare a fare un lavoro ordinario, duro, difficile, semmai in un'azienda, in una fabbrica, ci provano e sono disposti a tutto e quindi tendono a proporre la sorpresa familiare, ossia opere che assomigliano a Boetti ma non lo sono. Il collezionista sprovveduto anche di un sistema critico vitale, è ovvio che cerca di scegliere e acquistare quello che ha già negli occhi, quindi Boetti, Cunellis, arte povera, con una piccola elaborazione. E gli artisti giovani che sono debolissimi, già l'artista in generale è debole in questa fase storica, quelli giovani ancora di più, cercano di cercare una galleria per poter vivere di questo lavoro e non dover fare lavori ben peggiori. Quali problemi pone al mercato la continua crescita di offerta espressiva? Il mercato, in assenza di un contesto critico vitale che possa parlare di valore e non di prezzo, di fronte a un bombardamento di opere, contenuti e informazioni, cerca di arroccarsi su Torre d'Avorio, cioè musei, fiere, biennali, gallerie diventano dei fortini che devono difendere le opere da un presente ben più incidente. Possiamo pensare ad un sistema capace di assorbirla? Non è, credo, necessario un sistema che possa assorbire questa sovrapproduzione. Ci vuole un sistema critico che possa selezionare in modo credibile e argomentato questa sovrapproduzione. Questo servirebbe. La soluzione non è né il macro asilo dentro tutti e né il maxi che per farti rispondere a una mail devi pregare in turco, greco, romano. Il punto è un sistema critico che sappia selezionare in modo credibile i contenuti. Se facciamo un giro al Maxi in questi giorni di fine ottobre, la situazione è agghiacciante. Ci sono delle mostre terribili che sembrano il peggio degli anni 90 e l'unica cosa che fa effetto è l'architettura, anche se sembra di stare in uno dei giochini del minigolf. E è una cosa agghiacciante, e capisci perché il museo cerca sempre di fare delle open call per nuove idee, che poi è cercare idee gratis. Quale progetto politico può sostenere quest'idea? Il progetto politico è quello di creare un pubblico, cioè quindi fare dei progetti di divulgazione efficaci, come Luca Rossi Lab lo facciamo da 10 anni praticamente, in modo tale che se noi creiamo un pubblico anche la politica si deve interessare di questo pubblico, e quindi un pubblico interessato e appassionato significa qualità, significa sostegno agli artisti, al sistema, e questo oggi non avviene. Se andiamo bene, l'Italian Council fa una specie di assistenzialismo, cioè praticamente finanzia progetti deboli che in qualche modo sono dei boomerang per l'artista, perché se io faccio un progetto debole in una chiesa in Olanda, questa cosa sì mi dà da vivere per qualche mese, ma poi tutto finisce in una nuvola di polvere e cenere. Quindi il progetto politico che serve è la divulgazione e contemporaneamente la formazione di un nuovo tipo di artista, che oggi non esiste perché le accademie sono rimaste alle guerre puniche. Come Luca Rossi Lab abbiamo un'accademia via Skype su cui lavoriamo su un ruolo di artista altermoderno, e quindi una nuova idea di opera, una nuova idea di museo. Il coinvolgimento di altri interlocutori del mondo produttivo può essere una chiave di svolta? Direi di no, perché altri diciamo interlocutori spesso usano l'arte come mezzo pubblicitario, come brainstorming per fare marketing o per trovare delle idee di prodotto. Insomma, prima credo che l'arte contemporanea debba trovare un equilibrio al suo interno per poi proporsi nel modo più interessante agli interlocutori. Se l'arte contemporanea è debole, quando tu ti confronti con Pirelli, con Prada, con Elica, questi usano l'arte contemporanea perché sono molto più forti. Pensi che sia compito delle gallerie coinvolgere il pubblico? Le gallerie hanno bisogno di pochi collezionisti danarosi, quindi il pubblico credo che non gli interessi. Il pubblico deve essere coinvolto attraverso i musei, attraverso le istituzioni, le fondazioni, le riviste. Però il problema è proprio un problema generale, cioè non c'è gente capace di creare uno spazio per il pubblico di appassionarsi e di interessarsi, quindi non sono le gallerie necessariamente. Pensi che sia compito della galleria coinvolgere il privato? Il pubblico intendevate il pubblico, il settore pubblico, ma direi rimane no. Il privato, neanche il privato, le gallerie interessa il collezionista. Cioè, le gallerie d'arte secondo te appartengono al settore della cultura o del commercio? Ma se fossero intelligenti dovrebbero partire dalla cultura per arrivare al commercio. Adesso invece sono solo commercio e cercano di usare la cultura. Che rapporti ha e dovrebbe avere la galleria col territorio? Beh, sicuramente dei rapporti di dialogo arricchente. Dal tuo punto di vista c'è competizione tra le gallerie? Ma credo ci sia competizione tra le gallerie, ripeto, la competizione è basata su riferimenti completamente sballati. Bisognerebbe tornare a parlare di valore, ci vorrebbe un confronto critico vitale per creare una critica, per appassionare un pubblico e per avere artisti stimolati. Consideri la ricerca di una galleria che ti rappresenti un passaggio importante? Sicuramente la galleria che rappresenta un artista rappresenta un passaggio importante. Il problema è che se questo avviene in un contesto arido è un boomerang, cioè vengono date agli artisti illusioni e delusioni e si creano dei disgraziati. Io conosco un'accademia che si occupa non di arte contemporanea, che di eccellenza, che tra i suoi punti c'è anche la possibilità di dire all'artista: no, guarda, tu non hai talento per fare l'artista, è meglio che fai altro. E questo, secondo me, è una cosa molto giusta e molto interessante. Dal tuo punto di vista c'è competizione con gli altri artisti per il cieco della galleria? Bah, secondo me la situazione è talmente drammatica che è la guerra tra poveri, ma non è neanche appassionante parlarne. In base alla tua conoscenza del sistema, quanti gli artisti rappresentati da una galleria raggiungono l'autonomia economica? Ma io credo praticamente nessuno, e se lo fanno, lo fanno in modalità spesso creative rispetto alla Nonni Genitori Foundation. Spesso sono già persone, artisti che sono benestanti e quindi non hanno necessità di avere un'autonomia economica. Questa autonomia può essere stabile nel tempo, secondo te? Questa autonomia può essere stabile, ma ripeto, bisogna rifondare assolutamente un sistema, appunto lavorare sul confronto critico per creare dei valori. Allora, se tu crei dei valori condivisi, allora può diventare assolutamente interessante un artista che crea delle opere come testimoni di questi valori. Diversamente è tutto un sistema basato su una specie di truffa del circolo degli scacchi, insomma, autoreferenziale. Questa autonomia è sempre desiderabile? Ma sì, è desiderabile, ma non subito. Cioè, secondo me, un giovane artista che esce da un'accademia e trova subito un'autonomia è un dramma, perché si cristallizza in forme deboli nel 99,9% dei casi. E quindi vediamo artisti come, non so, Nico Vascellari, Alberto Tadiello, che erano questi alfieri di qualche anno fa, che poi alla fine si perdono, insomma, e devono fare riferimento, credo, poi a altre casualità della vita per sostenersi economicamente. Come si è sviluppato per te negli anni il discorso economico? Io credo che ci voglia un'autonomia, soprattutto rispetto a un sistema malato come quello italiano e in parte come quello internazionale. Quindi autonomamente, io credo che l'opera possa diventare un valore per l'artista che autoalimenta l'artista, e con questa alimentazione l'artista trova una sostenibilità economica che gli permette di fare liberamente l'artista, fino a quando il sistema non si risanerà e permetterà all'artista di avere una sostenibilità economica. Come si è sviluppato per te negli anni il discorso economico? Senti di avere oggi una qualche stabilità? Certo, una stabilità data proprio da questo sistema. Cioè, io creo l'opera che arricchisce prima di tutto me, che con cui posso anche condividerla con altri, e con questa ricchezza io creo ricchezza materiale, economica per me stesso. Quindi l'arte crea ricchezza in questo momento in modo indiretto. Però per fare questo bisogna imparare a farlo, e noi abbiamo fatto un'accademia via Skype. Hai necessità o pensi che potresti avere un futuro di fonti di reddito al di fuori dell'arte? Ma certo, io credo che avere fonte di reddito all'interno dell'arte è un suicidio. Cioè, io starei male, nel senso che creare Ikea evoluta, opere che scimmiottano l'arte povera, sperando che il giochino continui, per me è inquietante dal punto di vista esistenziale. Quindi anche poi penso la qualità concettuale dell'artista ne viene contaminata in modo importante. Quale prospettiva ti preoccupa? Ma nessuna prospettiva mi preoccupa. Hai mai lavorato al di fuori dell'ambito? Certo, totalmente. In base alla tua esperienza, in altri ambiti, i rapporti lavorativi funzionano in modo diverso? Sì, questo è interessante. In altri ambiti i rapporti lavorativi funzionano in modo diverso. Sì, c'è una maggiore professionalità. Pur essendoci comunque poca meritocrazia, ho sempre il fantasma, lo spauracchio della raccomandazione, sempre meno che nell'arte. Nell'arte veramente il sistema negli ultimi anni poi si è completamente sfasciato da questo punto di vista, e oggi sostanzialmente le opere sono fatte di un materiale fatto di pubbliche relazioni e luogo. C'è maggiore consapevolezza e regolarità? C'è maggiore sincerità, c'è maggiore professionalità, nel senso che uno può andare a fare un colloquio in un'azienda, invece oggi se tu chiedi un incontro con un gallerista questo non te lo dà, perché sono tutti dei giochi che prescindono dalla bravura dell'artista. Questo è drammatico, e poi lo vediamo, credo, chiaramente girando appunto in questi giorni al Maxi, capisci tutto. Hai mai avuto un agente? No. Pensi che una figura come l'agente potrebbe essere utile nelle arti visive come mediatore? Ma queste figure forse sono già presenti in modo naturale, però ripeto, è un po' come dire, se a una persona che sta morendo di una malattia, di un virus terribile, se gli può essere necessario avere un infermiere. Boh, non lo so, cioè francamente la malattia è talmente grave che avere un infermiere è totalmente irrilevante. Fuori dall'Italia il mediatore è una figura diffusa per gli tra gli artisti? Ma non ho idea, so che anche fuori dall'Italia da molti anni ormai anche le scuole migliori non assicurano nulla, perché c'è una sovrapproduzione di artisti incredibile. Forse bisognerebbe appunto pensare a un nuovo ruolo d'artista, e noi come Luca Rossi Lab lo stiamo facendo. Fino a che punto è possibile saltare i gradi di mediazione? Ripeto, questa cosa della mediazione la vedo poco rilevante rispetto a un problema molto più grande basato proprio sul valore di cui non se ne parla e che non c'è. Quindi fino a quando non troviamo un valore condiviso, stiamo parlando di costruire una casa su una palude, quindi per me non ha senso parlarne. Cosa possiamo imparare dalle esperienze in cui questo azzeramento è stato tentato? Questa cosa è interessante, ossia la committenza che contatta direttamente l'artista, invece oggi effettivamente contatta il curatore. Questo penso sia dovuto al fatto che l'artista è come un operaio non specializzato, e quindi è completamente intercambiabile, e il curatore invece, che è una specie di manager, può scegliere lui l'artista come fosse il colore di una tavolozza, e sta finendo per scegliere poi quei valori consolidati, perché dopo il 2001 non vediamo artisti internazionali rilevanti, e quindi il curatore sa che per creare un evento di richiamo devi chiamare Maurizio Cattelan, che è inteso come l'artista ormai come posso dire iper consolidato anni 90, no? Quindi sarebbe bello azzerare questa mediazione, anzi io cerco di viverla questa cosa, ma ripeto, prima bisogna trovare dei valori su cui l'artista sia specializzato e abbia una specie di monopolio nel creare il valore. Se l'artista è unskilled, cioè esattamente come gli operai che nel neorealismo andavano fuori dalle aziende, e quindi è chiaro che l'azienda esce e prende i primi 10 o prende quelli che sono stati raccomandati da qualcun altro. Quali sono le forme di finanziamento a cui principalmente ti rivolgi per sostenere la tua pratica artistica? Altri lavori, assolutamente. Il lavoro che devi svolgere per accedere riduce il tuo spazio poetico? No, ma bisogna anche qui imparare a creare un nuovo ruolo di artista che sappia lavorare su questi due livelli. In quali situazioni, momenti, luoghi pensi di trovare questo spazio poetico? Lo spazio poetico bisogna crearselo, quindi può venire ovunque, ma sicuramente se uno non ha una serenità economica può essere problematico, soprattutto perché senza serenità economica tendi appunto a fare l'IKEA voluta per vendere e guadagnare due soldi. Ci sono stati momenti in cui hai sentito che le difficoltà sono il motore di un rendimento poetico? Ma è chiaro che può essere uno stimolo, ma dipende sempre dall'atteggiamento che uno ha. Può essere anche un motivo di arrendevolezza, cioè se hai difficoltà economiche rielabori Boetti e speri zitto zitto di vendere qualcosa. Pensi che la galleria sia uno spazio elitario? Ma lo è, perché è molto più facile vendere opere bidone a persone ricche. Cioè, il collezionista, a differenza del risparmiatore Parmalat, non protesterà mai, perché non vuole perdere in status, perché non vuole rischiare di non vendere più l'opera, e perché è ricco. Quindi spendere 5.000 euro per una foto, al limite la mette la casa al mare. Quindi è ovvio che la galleria, soprattutto in un contesto critico assente, cerca una situazione elitaria. Quindi pensi che l'arte sia un fatto elitario? Assolutamente no, c'è solo un problema enorme di divulgazione, di formazione dei divulgatori, che non esistono. Pensi che le elite economiche e intellettuali coincidano? Credo che tendano a coincidere, però su questo lavoro, su questo si può combattere. Pensi che la situazione sia modificata negli ultimi 10-15 anni? Nel sistema dell'arte, negli ultimi 10-15 anni la situazione è peggiorata. Luca Rossi nasce nel 2009, circa 10 anni fa, proprio perché eravamo all'inizio di una degenerazione che sta continuando tranquillamente. L'arte è assolutamente accessibile, il problema è che mancano divulgatori capaci. Vorresti che lo fosse? Lo è assolutamente, lo è già nella realtà. Basti pensare che Facebook è un'opera d'arte relazionale che si è sviluppata concettualmente negli anni 90. È assolutamente possibile rendere l'arte popolare, bisogna saperlo fare. Ci puoi indicare esempi di maggiore diffusione dell'arte che non tradiscono la complessità? Lo stiamo creando, sinceramente a me non me ne vengono in mente. Mi viene in mente Alberto Angela, che riesce comunque a sciogliere la complessità, ma su altri fronti. Non a caso, imitando Alberto Angela, cerchiamo di fare questo anche nell'arte contemporanea. Ritieni importanti gli aspetti contrattuali nel lavoro artistico? Moltissimo. Senti di avere una buona conoscenza di questi aspetti? Assolutamente no, però si può imparare. Che tipo di prodotto è l'arte secondo te? È un prodotto di una natura complessa, che è in linea con un ruolo di artista complesso e diverso, che sta già cambiando, ma fuori dai musei. L'arte come prodotto commerciale ti pone problemi? Assolutamente no. Vendere un'opera a privati ti fa o pensi che ti verrebbe piacere? Certo. In base alla tua esperienza, quali elementi entrano nella definizione di un prezzo dell'opera? Il prezzo dell'opera dipende chiaramente dalla storia dell'artista in riferimento a un mercato che, per quanto diciamo può essere gonfiato, può essere definibile. Ci sono elementi che secondo te sono sopravvalutati? Sono sopravvalutate le pubbliche relazioni, le mostre che uno ha fatto in un mondo in cui ogni biennale sono 400 artisti, cioè non... Ci sono elementi che secondo te sono sottovalutati. Il valore, non si parla mai che valore ha quest'opera rispetto alla storia dell'arte, rispetto alla mia vita. Pensi che i social network possano aiutare il mercato? Ma possono aiutarlo come qualsiasi altro elemento, forse proprio per sono utili proprio per eliminare quella mediazione tra l'artista e per eliminare la mediazione tra la committenza e l'artista. Cioè i social network possono diventare un mezzo di emancipazione per l'artista. Pensi che si possano sostituire le gallerie? Parzialmente sì, ma non del tutto. Credi che il rapporto diffuso tra gallerista e collezionista possa avvenire anche online? Sì, però non solamente online, ci dovrebbe essere un gioco tra online e realtà. Se l'arte non generasse per te alcun reddito, pensi che te ne occuperesti ugualmente in altre forme? Oggi genera un reddito molto basso dal punto di vista economico, ma altissimo dal punto di vista del valore, e poi con questo valore guadagno su altri ambiti. Potresti descrivere rispetto all'arte la tua condizione ideale? La condizione ideale sarebbe poter sviluppare un luogo che possa essere un luogo di creazione artistica, una scuola e un luogo di divulgazione per il pubblico, che non significa educare, ma creare uno spazio di interesse e opportunità per essere interessati e appassionati. Quindi questa sarebbe la mia condizione ideale.